You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oh, oh. È così che fa. Zanko the White. Ti sembra normale, Zanko, perché l'arabe è blanco. Arabe made in Italy. Sono cresciuto nel quartiere della centrale station, dove dire immigrato era dire criminale nation. E quando rivelavo che la mia famiglia era tale, attention please, mi davano del particolare. Tu sembri normale, come se la normalità fosse una conquista eccezionale. Non dipende mai da te, dipende dalla classe sociale, dal colore della tua carnagione personale. Se sei diverso, sei in prigione. Sei legale, sono diverso antisociale. Bentornati, indovina chi viene a cena da Valentina Furlanetto. Anche questa settimana un ospite italiano di origini straniere. Oggi parliamo molto di musica, parliamo di scena rap italiana e lo faremo un po' spesso nelle puntate della nuova edizione di Indovina chi viene a cena con alcuni protagonisti di questa scena. Oggi abbiamo Zanko, benvenuto. Ciao a tutti. Nato a Milano da genitori siriani, ha un particolare soprannome, giusto? Ma il mio nome d'arte è completo, è Zanko e l'arabe blanco, e tradisce la mia apparenza. Come dice un proverbio molto noto, l'apparenza inganna. Io sono arabo di Hama proprio, sia mia mamma che mio papà che i miei nonni sono del centro della Siria, di questa cittadina che si chiama Hama. Molte persone qua in Europa non riescono a capire, non riescono a riconoscere facilmente le mie origini arabe, proprio perché sono molto lontano dallo stereotipo dell'immaginario comune riguardo all'apparenza araba. Cioè non sono moro, per dirmi, sono anche un po' biondino, diciamo. Tu che mi hai qua davanti. Sei in radio, difficile, perché non ti vediamo. È in radio difficile, andate a vedere le però mie foto su internet. Testimonio che l'arabe blanco è molto blanco, è molto sì, blanco. Sì. Sono la testimonianza vivente di quanto sia meticcio il mondo. E lontano dagli stereotipi anche nelle canzoni, perché comunque cerchi di portare le tue origini e anche l'insieme, la sintesi, il tentativo di sintesi fra origini diverse anche nelle tue canzoni. Ma io sono una sintesi, sia dal punto di vista dell'apparenza, proprio perché pur essendo arabo e siriano e musulmano eccetera, ho la faccia da occidentale, quindi è già anche questa una sintesi, sia perché sono cresciuto qua in Italia e quindi riporto nelle mie canzoni la mia esperienza d'incontro, no? Fra Oriente e Occidente, è molto dualistica come cosa, Oriente Occidente, Nord Sud, bene o male no. Perché allora, bene il male c'è dappertutto. La puntata sentiremo dei tuoi pezzi. A quale sei più affezionato e ti rappresenta di più? Ma sono diversi i pezzi che mi rappresentano di più. Io ho un cavallo di battaglia un po' più noto rispetto agli altri, che si chiama Essere Normale, che parla proprio di questo mio grande privilegio di poter passare inosservato qua in Occidente, di poter sembrare normale, fra virgolette, soprattutto in quest'epoca di sospetti, dove una faccia un po' più scura, magari con una denotazione tipica araba, genera un po' di sospetto e a volte anche di malumore, diciamo. Invece io ho proprio questo grande privilegio di passare inosservato, di sembrare normale, di confondermi in mezzo alle sciure milanesi, nei bar di paese. Nessuno mi prende per straniero, nessuno mi tratta da straniero. Quindi è un grosso privilegio, soprattutto in questo momento storico. Siriano di Milano, metro cosmopolitano, so di essere un essere umano, tutti su un piano, tutti su una mano. Poi ti direi Stranieri non in azione. Stranieri non in azione è un'altra canzone che mi rappresenta molto, perché parla della storia di molti come me che, crescendo fra due mondi, fra due culture, fra due paesi, da un lato si sentono stranieri sia nel loro paese d'origine sia in quello in cui crescono, soprattutto adesso che lo Ius Soli ha tutti questi ostacoli. Dall'altro lato si sentono un po' a casa dovunque. Io, grazie al cielo, mi sento molto a casa qua a Milano, anche in Italia, ma anche in Siria mi sento a casa, È difficile tu che... Tu sei nato a Milano, Io no? sono nato a Milano, sì. Comunque dove mi metti a... ho questa abitudine di adattarmi molto al posto. Ho vissuto anche a Parigi, mi sono sentito molto bene, ho vissuto a Montreal, è una cosa che piano piano, cioè questa possibilità che noi abbiamo di crescere fra due mondi, ti abitua anche ad adattarti a realtà diverse, oltre a quella, nel mio caso specifico, italiana e siriana. Tutti su una mano, sono palestinese, sono siciliano, sono albanese, sono africano, sono cinese, sono latinoamericano, sono napoletano, sono il siriano di Milano, metro cosmo. Tu sai che noi, la nostra è una cena, quindi di solito per parlare di identità parliamo anche di piatti. C'è un piatto più milanese o più siriano che ti rappresenta di più? Guarda, i miei gusti rispecchiano la mia identità, sono molto plurali, non ho un piatto specifico, ne ho tanti, dipende dal momento, dipende dal posto. Ma a casa tua da piccolo si mangiava siriano o italiano? Beh, a casa mia si mangiava misto, ovviamente. Sì, sì, noi siamo proprio misti in tutto. I miei ovviamente mi parlavano in arabo, giustamente, no? E anzi, io sono contento che mi abbiano parlato arabo, perché abbiamo assorbito bene la lingua, siamo perfettamente bilingui, io e i miei fratelli. E a casa nostra si mangiava sia piatti siriani, nella maggior parte dei casi, ma anche piatti piano piano italiani venivano introdotti nella dieta. Tipo il mio piatto preferito da piccolo erano gli gnocchi al ragù, mi piacevano tantissimo. E li faceva mia mamma, quindi una sciura siriana che ti fa il piatto tipico della Padania e veniva proprio bene, mi piaceva un sacco. Poi mi piaceva anche la pizza che faceva mia mamma, i maccheroni, piatti tipici italiani che quando erano a tavola mi rendevano molto contento. E tu in Siria ci sei mai stato? Sì, sì, certo, io da bambino ho vissuto in Siria, poi ogni estate andavo in Siria. Sono cresciuto un po' con i miei nonni. Il mio nome vero, che è Zudi, deriva da quello di mio nonno, che anche lui si chiama Zudi, e eravamo molto legati. Mi ha passato la passione per i viaggi, per imparare le lingue. Io ho vissuto con loro e ogni estate andavo da loro. Come fanno i meridionali di Milano, no? Finisce la scuola, tutti giù in Puglia, a Napoli, in Calabria, eccetera, no? Siamo un po' la stessa cosa, non è così lontana la... Perché i tuoi genitori sono venuti qui? Ormai tanti anni fa. Per ragioni di lavoro, ovviamente. Mio papà è venuto qua. Molti siriani che venivano qua venivano a studiare, si laureavano qua e poi iniziavano a lavorare qua. Questa è la tipica immigrazione siriana del passato qua in Italia, quindi un po' più occulta, diciamo, un po' più intellettuale. Mio papà invece viene da un filone un po' più commerciale, perché i siriani... di solito hanno delle, come tutte le comunità, hanno delle professioni più diffuse, no? Più storiche. Quella dei siriani è o i medici o i commercianti. Il commercio è una grande storica. Tuo papà commerciante? Sì, sì, mio papà proprio rifletteva questa tradizione siriana, è il primo commerciante siriano forse a Milano, uno dei primi sicuramente. Quando è arrivato qui? Negli anni 70. Tra commercianti e medici, tra queste due tradizioni, tu hai scelto la tradizione dei medici perché sei dentista, rapper e dentista. Ancora una volta una dualità nella tua vita. Ma questa guerra in Siria, che ormai è arrivata al 7° anno, come viene percepita da te e dalla tua famiglia? Beh, sono stati un po' tosti, sono stati un po' tosti, perché hai delle implicazioni dirette. Io la vivo in modo molto indiretto, ovviamente, perché sono molto lontano, grazie al cielo. Tuttavia ci sono delle implicazioni pratiche dirette. Ad esempio, i parenti hanno dei problemi, li devi sentire, cercare di sostenere, di aiutare in qualche modo, anche con una parola, anche con... non solo con dei soldi, perché comunque ovvio noi dobbiamo sostenerli anche inviando dei soldi, giustamente, ma al di là di quello anche con un sostegno, una chiamata, come stai, come va lì, com'è la situazione, così. Asociale invece se ti associano alle caratteristiche della gente locale, allora sì che sei un pari, sei simpatico e impara ad apparire normale. Se farà apparire normale bisogna omologarsi, sconfinare nel superficiale, allora me ne vado, mi trasferisco al paranormale. Sono palestinese, sono siciliano, sono albanese, sono africano, sono cinese, sono latinoamericano. Ci fermiamo brevemente, torniamo con voi e con te tra pochissimo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Ho original arabe, made in Italy. Alle elementari io e mio fratello Fari eravamo fra i rari extracomunitari, coi Kidane Mari, Amlor, Eritrei, Habesha, rappresentavano gli africani e là. Noi siriani, mashallah, i visi balli dell'Islam. Intanto più crescevi, più ti rendevi conto dell'ignoranza, della mancanza di sostanza. In sostanza mi chiedevano Zanco, cazzo ti serve fare Ramadan e mamma non danza. Seconda parte di Indovina chi viene a cena. Oggi siamo con Zanco, che è uno dei giovani rapper italiani sulla scena milanese da un po'. Ci stava raccontando delle sue origini siriane, delle origini dei genitori in realtà, perché tu sei italiano, ma ci raccontavi della guerra, di questa necessità di sostenere la famiglia anche in maniera emotiva, perché vi sentirete al telefono, immagino, con sì, certo, i nonni. Con i nonni, gli zii, eccetera. Non è una cosa, cioè il sostegno emotivo non è una cosa scontata. Quando uno è in una zona di guerra, vive magari pieno di problemi, posti di blocco, prezzi alle stelle, non per forza sotto le bombe, ma la guerra porta tante tante implicazioni molto negative, quindi c'è bisogno anche di sostegno emotivo, diciamo. E bisogna ricordarsi di darlo, e non sempre è facile, perché siamo presi dai mille impegni anche noi che stiamo qua in Italia, e quindi di tanto in tanto devi ricordarti che è giusto sentire un attimo come stanno i parenti, anche se sono dall'altra parte del Mediterraneo, diciamo. Qual è la situazione adesso nell'area in cui vivono i tuoi parenti? No, nell'area dove vive la mia famiglia, a Hama, la situazione è sempre stata un po' più tranquilla, grazie a Dio. Il disastro non è capitato... Non sono scappati? No, molti sì, sono scappati, ma non perché sono sotto le bombe, ma perché sono... in uno stato, non dico d'assedio, ma molto difficile, non possono muoversi, i costi sono alle stelle, non puoi uscire dalla città, è soffocante dopo un po', quindi molti sono fuggiti, altri sono rimasti là. Hama è la situazione è sempre stata più tranquilla, perché è rimasta sempre sotto il controllo del regime. Siccome in Siria le bombe cadono contro chi è contro il regime, siccome Hama è rimasta sempre in mano alla dittatura, non abbiamo avuto questo tipo di problemi, diciamo. Almeno questa ce la siamo scampata. Veniamo alla musica invece, parlavamo di questa tendenza sempre più di avere rapper in Italia di seconda generazione, è un caso, è un filone davvero, oppure c'è effettivamente una predisposizione, diciamo, magari anche perché alcune di queste persone, di questi musicisti, di questi cantanti crescono fra due culture, si sentono un po' più ai margini del mainstream, e quindi utilizzano questo mezzo più, forse più di rottura. Guarda, io ti dico che secondo me è una tendenza naturale, più che a seguire la tendenza americana è forse seguire la tendenza francese, perché gli afroamericani sono una minoranza, ma sono americani. Invece in Francia sono franco-magrebini, franco-africani, cioè sono minoranze con ancora un legame con un qualche paese. E in Italia succede anche questo, cioè piano piano crescono le seconde generazioni e nell'adolescenza iniziano ad avvicinarsi ognuno a un certo tipo di musica, molti virano verso la scena black, non solo perché sono un po' scuretti, no? Ecco, perché buona parte comunque di chi è origine africana, magrebina o araba si avvicina a questo genere, senza dubbio. Non è solo per quello, sarà anche perché nel mio caso almeno avevo diverse cose da dire, e sicuramente dirle attraverso il rap è più semplice. Quindi no? Temi sociali, proteste. Non per forza, tante cose, anche un racconto. Non deve essere per forza sempre vista come una ribellione, anche se nell'adolescenza si tende ovviamente ad avere quell'atteggiamento un po' ribelle. C'è anche la volontà di volersi raccontare, di voler dire guarda che io sono così, sono un po' diverso da quello, sono un po' strano di qua, mi sono innamorato di questa ragazza. Comunque il rap è bello perché tu puoi mettere in musica un tuo racconto, mentre nel rock è più difficile. Poi il rap è anche molto più democratico, più facile da fare, no? Puoi avere lo studio di registrazione in camera, non è necessario andare ad affittare, a comprare le chitarre, eccetera. Investimento basso, rendimento alto, quindi è molto più accessibile. Io penso che quando una persona si ritrovi con la penna e il foglio e una base musicale... Tu come musicale, hai iniziato? Così? Io ho iniziato in terza media, la prima canzone che ho scritto in terza media grazie alla mia prof, e qua sottolineo il ruolo importantissimo della scuola e degli insegnanti, perché lei mi ha buttato verso questa attitudine, diciamo. Io già ascoltavo alla radio e mi piaceva, ascoltavo i primi pezzi che venivano passati su Radio DJ in questo programma. Cosa sentivi? Quali sono i punti di riferimento? Ma io all'epoca c'erano gli Articolo 31, gli OTR, e a me ha influenzato parecchio, perché io ascoltavo questi rapper alla radio e poi ho scritto il mio pezzo grazie alla prof, che ci ha chiesto o una poesia o una canzone sul razzismo. Io non sapevo cantare e neanche scrivere le poesie, allora ho detto mischio una cosa insieme, vediamo cosa ne viene fuori. Ho chiamato il mio compagno... Come si chiama questa professoressa? Franzini. Speriamo che un giorno mi ricontatti, perché io la vorrei riabbracciare e dirle grandissima prof. La non... prof delle medie. Delle medie Teodoro Ciresola, in Viale Brianza, in zona Loreto a Milano. Prof. Franzini, scuola. Qualcuno che la conosce, le dica di contattare Zanco e l'Arabe Blanco, che io le sono grato. Il mio DNA, il siriano di Hamam a Milano, la mia città è da quando il mondo è mondo. Non ho mai creduto che doppia nazionalità potesse essere un conflitto di identità. Nulla a che fare con un handicap, è open mind, open personalità. Ora bacio mani. Prima citavi di passaggio lo Ius Soli. Non credo sia il tuo caso, perché tu hai la cittadinanza italiana. Sì, io l'ho presa italiana. A 18 anni, sì sì. Però se ne dibatte molto come una possibilità di maggiore integrazione per le seconde generazioni. È sufficiente? Guarda, non è sicuramente sufficiente, eh. È un di più perché fa sentire le persone che sono nate e cresciute in Italia al pari degli altri e non come gli ultimi arrivati. Purtroppo c'è molto questa particolarità italiana di considerare chi è nato e cresciuto qua ancora come se fosse uno straniero. Dal mio punto di vista questo è sbagliato. Bisogna farli è sbagliato capire... o è anche pericoloso? Potrebbe forse essere un po' pericoloso, perché ci sono magari quelli che nell'adolescenza hanno un po' di emarginazione, si sentono un po' esclusi e possono usare anche questa leva qua per la frustrazione, l'emarginazione. Può capitare, non è detto che sia un immigrato, no? Può essere una persona timida. Nell'adolescenza il timido viene isolato. Se questo timido è anche di origine straniera, dice guarda, mi rifiutano i miei compagni, mi rifiuta sto paese, questo è un paese di merda, scusate il francesismo, allora li mando tutti a fanculo, ecco. Se c'è una testa calda può diventare anche pericoloso. Stranieri in ogni nazione, in ogni azione c'è un'espressione di international integrazione. Siamo seconda generazione. Stranieri in ogni nazione, in ogni azione c'è un'espressione di international integrazione. Mi vedi più. Io ne conosco tanti, poi arrivano a 18 anni, devono fare un concorso pubblico, devono accedere a, che ne so, varie categorie che richiedono la cittadinanza italiana, non possono, eppure loro sono nati, non sono nati qua, ma sono cresciuti qua, quindi sono italiani di fatto. Non sono solo italiani, io ci tengo a dire questa cosa, io non sono solo italiano, io sono anche italiano. E penso che questa identità vada riconosciuta anche a livello ufficiale. Rifiutare lo Ius Soli per chi è cresciuto qua, e non dico per chi è nato qua, perché magari nato già è più semplice, ma per chi è cresciuto qua diventa un problema, perché molte di queste persone devono reprimere le loro ambizioni, e lo dico anche nell'interesse degli italiani, perché questa cosa non fa altro che facilitare la mediocrità. Non bisogna avvantaggiare i mediocri. Qua c'è una persona che è cresciuta qua, non è nata qua ma è cresciuta qua, ha diritto di concorrere a un posto di lavoro esattamente come un italiano, e vinca il migliore. Dicono che non è più, che non c'è un clima positivo su questo, cioè che l'opinione pubblica non è favorevole. È peggiorata molto. Tu pensa che a solo 2-3 anni fa il coerentissimo Movimento 5 Stelle ha chiamato me, un altro mio amico che saluto, il mitico Diamond, a Diamante, grande Daniel, a partecipare, ci ha chiamato a partecipare a un'iniziativa a Brescia sulle seconde generazioni. Si vede che è arrivata la chiamata da Genova. Uè Belin, qua non facciamo ste cavolate, se no perdiamo voti. E poi hanno virato dall'altra parte. Adesso si sono avvicinati. Non ti hanno più chiamato. No, non è solo non ci hanno più chiamato, hanno annullato l'evento e adesso hanno visto dove l'acqua porta voti e stanno seguendo quella corrente, molto suscettibili agli umori di Casa Pound. Non è una cosa molto piacevole, francamente, perché solo 2-3 anni fa la maggior parte degli italiani era favorevole. È buon senso dal mio punto di vista, dai, non è che tu prendi la cittadinanza in automatico, questa è una gran cavolata che viene diffusa per propaganda, è falso. Devi stare 5 anni a scuola, devi avere i genitori che risiedono qua da un tot di anni in modo regolare, eccetera. Penso. I rapper avranno molto materiale su cui scrivere. Beh, certo, perché ci stanno dando molto pane per il nostro più forno. Più conflitto, più frustrazione, più canzone, più rap. Per io spero chiudere... che le canzoni non siano solo sulle frustrazioni, dai. No, però insomma mettiamoci qualcosa di positivo. È un genere che racconta bene talvolta il conflitto generazionale. Beh, sì, certo, culturale, certo. Per chiudere, ci dà anche qualche sapore e gusto dell'altra metà di te, della Siria? Ma io ti direi il Batrash è forse il mio piatto siriano preferito. Io adoro questo piatto, che è originario della mia città di Hama ed è praticamente un patè di melanzane, che sarebbe, non so se l'avete mai sentito, l'mtabbal, è un patè di melanzane bruciacchiate, diciamo, su cui ci va uno splendido ragù di carne al pomodoro, mamma mia, cioè... A me il ragù, come avrai capito, mi piace tantissimo. Già il piatto italiano da piccolo erano gli gnocchi al ragù, il piatto siriano il batrash, buonissimo. Una delle prerogative della cucina siriana è sicuramente il fatto di trovarsi di fronte a un popolo estremamente conviviale, cosa che si riflette nel fatto che i pasti si trasformano in qualcosa di più rispetto alla sola necessità di nutrirsi. La gastronomia siriana è influenzata da diversi popoli, ma in particolare dalla Francia. Tra gli antipasti freddi sono molto buoni i mutabbal, crema di melanzane, l'hummus, crema di ceci, il mammara, pasticcio di noci e peperoni, il fattouche, insalata con pane tostato, tra quelli caldi il fatayeh, fagottini di pasta ripieni di carne, formaggio o spinaci, il sauda, fegato stufato in succo di melograno, e l'isanat, cervella e lingua d'agnello. Si prosegue con kebab, spiedini di carne tritata, kafta, carne tritata al forno con patate e pomodori, e il sukaf, spezzatino d'agnello grigliato. Fanno da contorno zucchine ripiene o melanzane in salsa di pomodoro. Il pasto si conclude con i dolci. Fra i più tipici, baklava, pasta sfoglia ripiena di noci, mandorle o pistacchi, e muallabieh, budini di riso aromatizzato con acqua di rose e pistacchi. Senti, come si dice indovina chi viene a cena in arabo? Hazir min jay al-asha. Grazie a te per essere stato con noi. Grazie a voi, seguitemi sui social zanco con la k.arabeblanco o anche su YouTube e venite anche a sentirci live. Grazie a Valentina e grazie anche a Radio 24. E grazie anche a Carmelo Lauricella in regia, che ci ha aiutato per la parte tecnica. Tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo sabato prossimo, ciao. You've got to give a little. That's the glory of love.